Europa 24. È ripreso stamani a Bruxelles l'incontro trilaterale fra UE, Russia ed Ucraina sul prezzo del gas acquistato da Kiev e di rimborsi del debito. Al tavolo siedono il commissario europeo Günther Oettinger ed i ministri dell'energia russo ed ucraino Alexander Novak e Yuri Prodan. Il negoziato doveva riprendere ieri sera ma è slittato a causa dell'arrivo in ritardo della delegazione russa. Lunedì c'era stato un primo round di discussione durato 7 ore, ma sono varie le questioni ancora aperte. Intanto la Gazprom ha annunciato di aver rinviato al 16 giugno l'ultimatum all'Ucraina per il pagamento del suo debito sulle forniture di gas e la continuazione del servizio. La proroga coincide con la prosecuzione degli incontri a Bruxelles. L'Unione Europea ha aperto un'indagine per esaminare se il regime applicato da Irlanda, Olanda e Lussemburgo ad Apple, Starbucks e Fiat Finance è in linea con le norme sugli aiuti di Stato. Nel contesto di bilanci ridotti è importante che le grandi multinazionali paghino la loro parte di tasse, ha detto il commissario europeo Joachim Almunia. La Commissione Europea ha aperto oggi un'indagine contro 3 paesi dell'Unione Europea accusati di avere offerto accordi fiscali ad alcune multinazionali violando le regole del mercato unico e nei fatti concedendo alle aziende aiuti di Stato. I paesi sono l'Olanda, il Lussemburgo e l'Irlanda. Le 3 società sono Starbucks, Fiat Finance and Trade e Apple. Non è la prima volta che la Commissione si dice preoccupata dalle abitudini fiscali di alcuni paesi. Il fisco è ancora competenza nazionale nell'Unione Europea, ma l'esecutivo comunitario deve garantire l'omogeneità del mercato e lottare contro eventuali distorsioni della concorrenza. Per questo motivo il commissario alla concorrenza Joachim Almunia ha aperto questa inchiesta che potrebbe comportare da parte delle società il rimborso degli aiuti di Stato. Veda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. L'antitrust europeo ha approvato l'acquisizione da parte di Allianz di asset di UnipolSai. Si tratta di asset assicurativi non vita della ex Milano Assicurazioni, compresa la sua divisione Sasa. La Commissione europea ha concluso che l'acquisizione proposta non solleva problemi di concorrenza, dato che le sovrapposizioni fra le attività sono limitate e che sul mercato restano altre compagnie assicurative capaci di esercitare un'efficace pressione concorrenziale su Allianz. Il Tribunale europeo ha annullato l'iscrizione della Syria International Islamic Bank dall'elenco dei destinatari di misure restrittive. Il Consiglio europeo aveva adottato delle sanzioni nei confronti della banca siriana per aver offerto copertura alla Commercial Bank of Syria, consentendole di eludere le sanzioni imposte dall'Unione europea. Ma secondo i giudici, il fatto che la SIIB abbia fatto transazioni per persone che hanno conti anche presso altre 2 banche nel mirino del Consiglio europeo non giustifica la sua iscrizione. Rilancio della collaborazione strategica fra l'Unione Europea e i paesi della Lega Araba, lotta al terrorismo e al traffico degli esseri umani, ma anche la necessità che in Medio Oriente la pace rimanga un obiettivo strategico. Questi punti salienti, oltre ai diversi dossier regionali, che vengono discussi oggi ad Atene nel corso dell'incontro dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e della Lega Araba. Arriva il tappo anti-rabbocco per l'olio nei ristoranti. Fra un mese scattano sanzioni da 1.000 a 8.000 euro più confisca del prodotto per chi non lo usa. Le bottiglie di olio d'oliva sulle tavole dei ristoranti dovranno avere una chiusura che non consenta, cioè un nuovo riempimento. Più trasparenza a tutto campo per il consumatore e il cliente dei ristoranti italiani, ma non solo in Italia. L'emendamento di Colomba Mongello del PD alla legge comunitaria, approvato dall'Assemblea di Montecitorio, impone anche l'indicazione del termine miscela per gli oli originari di più di uno Stato membro dell'Unione Europea, in modo da evitare il nome Made in Italy per oli non interamente prodotti in Italia. Sentiamo il deputato del PD Colomba Mongello, componente della Commissione Agricoltura della Camera, al microfono di Anna Marino. La legge salva olio fu approvata dal precedente Parlamento. Io ho avuto l'onore di firmarla insieme ad altri 70 parlamentari. Fu approvata all'unanimità da Camera e Senato e tuttora legge. Fu contestato dall'Europa il famoso tappo antirabocco e l'etichetta.